it is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è stagnante come in un ufficio dell'era bresnieviana, K e Drago fanno mente locale. To tell you this frankly, if you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Adesso basta però, Ma cos'hai? Cosa c'è, Drago? Basta con questa nostra ignavia, questa indifferenza, perché non possiamo più far finta di niente. Guarda dove siamo in una specie di grande camera della morte. Dai, Drago, quindi... una fabbrica di polli è una fabbrica di polli, né più né meno, stai calmo. Ma guarda, dai, i polli vengono trattati come se fossero proprio delle macchine per la produzione di uovo, di carne. E te ne accorgi adesso? Sono chiusi in queste gabbie di Faraday. Specifico, in queste gabbie di ferro, a volte stanno giorni e giorni sotto la luce artificiale, così non dormono mai e continuano a fare uova, a volte per motivi che ignoro le tengono tutte al buio e poi mangiano schifezze chimiche che servono a farli ingrassare, insomma. Ma dai, cosa ti devo dire? Hai ragione. Ho ragione. Oltretutto questo è un cosiddetto allevamento senza terra, quindi non è in realtà un'azienda agricola. Non mi sembra. Non si coltiva niente. Niente. Le galline mangiano quello che l'amministratore delegato decide di comprare, usando, lo sappiamo, la tecnica del 15%, quindi immagina la qualità degli alimenti. E oltretutto tu credi che le galline che ci sono qui dentro siano galline normali? Vabbè, certo che no, sono anche dei polli parlanti che prima vendevano dei dischi, direi che normali non lo sono, quindi... Vabbè, ma a parte il pollo in sbattimento che è un'eccezione, io parlo di polli tipo questi qui, Drago, questi che vedi sempre chiusi nelle loro gabbie, questi qui, ecco, questi sono degli ibridi commerciali. Sai come le chiamano? Le chiamano galline semipesanti. Invece, e noi cosa siamo? Galline semipensanti? Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso, e cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle, figlio di Apollo? Io lo so che un pollo ormai siederà tra gli dei dell'Olimpo e mai farà una palla di pelle con la pelle di Apelle, perché un pollo per sempre pollo resterà. It's cruel. Whoa. Yes, it's cruel. Whoa. Yes, it's cruel. Che cosa nasce prima? Un uovo, la gallina, le penne o i calamai? Dare fuoco a un bosco. Quello che sembra un gesto insignificante che ciascuno di noi potrebbe fare quotidianamente, senza difficoltà, per esempio gettando un mozzicone di sigaretta ancora acceso ai margini della strada, può rivelarsi importante per la nazione. Perché? Perché incendiando il bosco interverranno i vigili del fuoco, le guardie forestali e magari anche i mezzi aerei, e allora l'economia si muove, il denaro circola. Può darsi che si decida anche di trasformare i contratti dei forestali precari in contratti a tempo indeterminato. O addirittura si bandisca un concorso per assumerne di nuovi. poi il bosco andrà reimpiantato, e cioè altro lavoro. Oppure ancora meglio, si spiana tutto e si fa un bel centro commerciale, e comunque col centro commerciale devono essere realizzate strade per arrivarci, e poi ci saranno i negozianti che vorranno aprire dei punti vendita e dovranno assumere commessi, cassiere. Insomma, si genera lavoro, impresa, economia che cresce e arricchisce tutti. Fate anche voi come tanti amici della Liguria, della Sardegna e della Calabria. Adottate un bosco e dategli fuoco. Told up you could make it, told on gonna do me, I'm going down to the sunshine of your love. Na na na na na na na na na na. Questa era Sunshine of Your Love dei Cream. E l'album, sai che non me lo ricordo. E neanche l'anno. Sì? Pronto? Pronto? Qui è il pugno nel pollo. Mi risulta che lei sia il proprietario di un campo di sterminio per polli. Sì. Ma noi facciamo 200.000 polli alla settimana in macellazione, più 100.000 che li vendiamo vivi alla settimana. Ma come li tenete i miei fratelli, eh? Come li tenete? Tutti in batteria? No, sono tutti lì, liberi. Ma i polli non esistono in batteria. Ma come non esistono? Lei nega forse le condizioni misere in cui sono tenuti quei poveri volatili? Si sta sbagliando. I polli sono tutti a terra e non i polli industriali. Adesso mi parli in batteria, ci sono gli animali, le galline ovaiole in batteria. Ma polli allevati in batteria non esistono. Io ho letto che i polli vengono nutriti in modo da arrivare in 7 settimane a pesare 50 volte il peso iniziale, e che non riescono a reggersi in piedi. Come fanno a stare a terra, eh? Dite la verità, li tenete in gabbia? Ho fatto delle gabbie, avevano studiato delle gabbie gli olandesi per mettere i polli da rosticceria nelle gabbie, ma penso che non le abbiano neanche più pubblicizzate e reclamizzate. Quindi tutti i polli sono a terra. Non è vero, lei mente. Libertà ai polli, libertà ai polli. Le idee ce le ha abbastanza confuse, quindi non so di che cosa lei abbia bisogno, insomma. Io ho bisogno che chiudiate immediatamente l'allevamento, chiaro? Altrimenti il pugno nel pollo ve la farà pagare cara. La fabbrica di polli. Forse li stava dentro la fabbrica, eh? Io sto diventando comunista. E pensare che non lo sono mai stato. Cioè, se comunismo vuol dire fare la rivoluzione e sfasciare tutto, allora io sono sempre stato comunista. Se invece vuol dire essere ricchi sfondati e lamentarsi di come vanno le cose, allora no, eh. Io i comunisti ricchi non li posso mica vedere. I comunisti devono essere poveri e incazzati. Invece adesso li vedi lì i comunisti, quelli ricchi. Che sono sempre gentili, intelligenti, ragionevoli, presentabili. Che schifo. Il comunista, come lo dico io, deve avere una specie di tuta da lavoro, blu o verde militare. Questo dipende se parliamo di comunisti sul modello cinese, che hanno la tuta blu, o di comunisti sul modello cambogiano, che sono verdi. Perché i cambogiani, come i comunisti, sono sempre stati migliori. Quelli sì che hanno fatto presto. Un bel genocidio sotto gli occhi del mondo, in piena guerra fredda. Così nessuno ha usato il press bocca per porre della Russia, e via. Invece qui, i comunisti hanno una divisa di Kashmir, bella, comoda, costosa, fumano il sigaro come se fossero dei boss della finanza, parlano di cinema come se fossero Cadu e Fava, vanno alle mostre, alle inaugurazioni, alle feste mondane, e questi mica vanno bene, eh? Io questi qui li farei fare qualche giorno qua dentro, e poi vediamo se non imbracciano le armi pure loro e cominciano a sparare, eh? Che poi quelli non sanno neanche sparare, sti finti comunisti ricchi che abbiamo qui. Se li dai un Kalashnikov in mano, quelli lì, non sanno nemmeno come toglierla sicura, eh? E io vado in sbattimento, eh? Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento non era diventato improvvisamente cristiano? E quindi perché parla di comunismo? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ideologico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Barnum.